America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Un'altra apertura dedicata alla chiusura della borsa a New York, un andamento, contrastato, quello di ieri. A un certo punto il Dow Jones guadagnava di nuovo quasi 100 punti sull'ondata di messaggi d'ottimismo in arrivo dalla Cina. La Cina, a sorpresa, ha deciso di tagliare di un quarto di punto i tassi di interesse. Questa notizia così ha galvanizzato un po' i mercati sulla scia di notizie positive che sembravano arrivare nei giorni scorsi dall'Europa. E dopodiché diciamo che la seduta si è un po' accasciata e alla fine l'indice Dow Jones ha chiuso sia al rialzo, ma un rialzo modestissimo, appena dello 0,37%, e dunque è intervenuta di nuovo una pausa di riflessione. There's not a whole lot that can be done to attenuate the problems in Europe. We obviously have to monitor very carefully. I think the best thing we can do is try to make sure that we're strong and prepared here in the United States. E Ben Bernanke, che ha parlato in un'audizione al Congresso, che ha un po' raffreddato gli entusiasmi in questo passaggio, dice: non c'è molto che si possa fare da qui rispetto alla crisi europea. Ovviamente continueremo a monitorare la situazione, ma il meglio che l'America può fare è essere forte abbastanza e preparata ad affrontare le conseguenze. Siamo arrivati a un punto in cui è necessario che i leader europei prendano nuove importanti misure per contrastare la crisi. Un messaggio non nuovo: l'America da tempo dice che la crisi europea è una responsabilità dell'Europa, che l'America non ha quattrini per poter intervenire ed aiutare in modo concreto l'Europa, ma devo dire che il messaggio un po' deludente da parte di Ben Bernanke è stato quello di non dare l'idea di essere pronto a intervenire immediatamente con una manovra accomodante sul mercato in sostituzione dell'operazione Twist, che andrà a scadere fra poco alla fine di giugno, e soprattutto alla luce di dati poco incoraggianti sul fronte dell'occupazione. Qui l'America ha un problema serio ed è inutile che vengano a raccontarcela che il problema c'è per colpa dell'Europa. E l'America ha pompato tale e tanta liquidità nel suo sistema che oggi avrebbe dovuto crescere a ritmi molto più rapidi di quelli cui sta crescendo, soprattutto avrebbe dovuto esprimere una occupazione, la formazione di nuova occupazione, con numeri molto più elevati di quelli che abbiamo visto, straordinariamente deludenti, venerdì scorso. Lo ricordo: 69.000 nuovi salariati dipendenti contro i 150.000 attesi. E dunque, alla luce dei timori che possa esserci una nuova recessione, alla luce dei timori che l'indebolimento dell'economia americana è strutturale, legato certamente in parte all'America, ma anche legato a una situazione interna che comunque resta strutturalmente prudente, Ben Bernanke avrebbe potuto far capire che la Banca Centrale Americana era pronta a nuovi interventi. Non lo ha fatto, si è tenuto sulle generali, e dunque ecco la delusione, ecco la marcia indietro da parte delle borse americane. You're right to remind people that we live in the global economy. We're not an island of prosperity unto ourselves, and so we get affected by what happens beyond our shores. And you know, we saw in 2010 and 11, as the economy was recovering, you know, we get hit by Europe, by oil, by Japan, and that caused growth to slow here. Alla voce di Bernanke, un paio di giorni fa si era unita quella di Tim Geithner, segretario al Tesoro americano, che aveva chiamato il ministro delle finanze cinese Wang per discutere di un posizionamento comune in vista del G20. Io non sottovaluterei l'ipotesi che la Cina abbia potuto decidere questa riduzione dei tassi di interesse per dare un messaggio così rassicurante in prospettiva in vista di questo G20. C'è stato anche un messaggio piuttosto antipatico, devo dire, ieri da parte del responsabile del fondo sovrano di investimenti cinesi, il quale ha detto: non investiremo più in Europa, l'Europa è in una situazione piuttosto difficile, e se prima eravamo preoccupati, adesso non ci sorprenderemmo che addirittura una rottura del sistema europeo possa in qualche modo succedere. Ecco, come vediamo, c'è un coro dissonante, questo non aiuta il mercato. Da una parte parte messaggi rassicuranti che sono arrivati dall'Europa, dall'altra dei messaggi contrastanti. C'è da chiedersi se il responsabile del fondo cinese, il CIC, fosse davvero al corrente degli ultimi sviluppi in arrivo dall'Europa. Voglio sottolineare che ci troviamo in un momento molto importante, stiamo vivendo, forse non ce ne rendiamo conto, un momento storico in cui le redini della gestione dell'economia globale stanno passando di mano, o comunque stanno cominciando ad essere condivise. La Cina ha un ruolo sempre più influente, il G20 ormai ha preso il posto del G8, il G20 si riunirà il 18 e il 19 di giugno in Messico, a Cabo San Lucas, e da lì vi sarà l'annuncio del firewall. C'è infine un'Europa, e questo ci riguarda più da vicino, che sul piano storico sta cercando di capitalizzare su un momento negativo per trasformarlo in un momento positivo, per rafforzare l'unione fiscale, il controllo sulle banche, addirittura l'unione politica, con date precise 2013, 2015, 2020 per una delega maggiore dei poteri a Bruxelles. Ecco, in questo contesto, sottolineo, secondo me storico, ogni giornata assume una sua fisionomia particolare. Ho con me i microfoni di America 24 Marco Valsania, che ha seguito ieri direttamente l'audizione di Bernanke. Marco, buongiorno. Buongiorno. Marco, hai avuto un po' la sensazione che Bernanke abbia fatto storia? Cioè, sembra che ogni giorno qui qualcuno possa davvero fare storia, perché non si tratta più di parlare di routine, ma si tratta di affrontare tematiche che sono sempre un po' più ampie, con orizzonti più lontani di quelli a cui eravamo abituati tradizionalmente. Sei d'accordo? Certamente, nelle parole di Bernanke si legge proprio questo, la preoccupazione del governatore della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, ha coperto un po' tutti gli scenari internazionali. Paura per le sfide domestiche, paura per le sfide internazionali, per le ombre di crisi in Europa che si addensano e che rischiano di contagiare anche il resto del mondo e l'America, paura per la frenata in Oriente della Cina. Ecco, ci sono degli altri punti di riferimento storici, a parte questo intrinseco legame trilaterale Asia-Europa-Stati Uniti? Gli Stati Uniti hanno un problema altrettanto storico, quello del disavanzo pubblico, debbono ridurlo, altrimenti saranno guai. Come vedi la situazione? Sì, quello è il grosso bubbone interno a cui ha fatto riferimento tra l'altro Bernanke ancora ieri. Ricordiamo che gli Stati Uniti si trovano davanti a un dilemma urgente. Entro l'anno devono trovare un accordo, il Congresso, la Casa Bianca devono trovare un accordo, altrimenti scatteranno dall'inizio dell'anno prossimo aumenti delle imposte e tagli fiscali per centinaia di miliardi di dollari, che rischiano di diventare un ulteriore ostacolo storico all'economia americana. Certo, sono dei tagli automatici, cosa che tutti, devo dire, i politici americani temono. D'altra parte è impensabile che si mettano d'accordo da qui al 6 novembre, e credo che, come diceva Marco, la tesi prevalente sia quella di avere un negoziato piuttosto costruttivo fra il 6 novembre, data delle elezioni americane, e la fine dell'anno, quando ci sarà questa scadenza naturale che apre ai meccanismi automatici, e per allora ci dovrà essere un accordo. Io credo che per allora ci sarà un accordo. Infine, Marco, la storia passa anche attraverso le presidenze degli Stati Uniti. Barack Obama rischia grosso da questa debolezza americana. Tu cosa pensi? Si rischia grosso, e i sondaggi lo rendono evidente. C'è qualche analista che ha anche calcolato questo rischio, se vogliamo così dare un esempio. Ecco, si ritiene che se l'economia americana non riuscirà a creare in media da qui a ottobre tra i 120 e i 150 mila nuovi posti di lavoro al mese, ecco, le chance di rielezione di Barack Obama saranno davvero davvero difficili. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ziggy Stardust ha compiuto 40 anni. L'album che sanzionò il successo internazionale di David Bowie è stato lanciato negli Stati Uniti il 6 giugno del 1972. Dunque lo ricordiamo dedicando a David Bowie la canzone del giorno, Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. became the special man. Then we were Zigger's band. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!